dottor Giabbar voleva fare alcune osservazioni sul punto della relazione della professoressa Sarnelli sopra la donna nell'Islam. Vabbè, io non sto per fare nessun conto, insomma, sulla relazione, ma semplicemente aspettavo che, cioè, la questione femminile, uno dei punti secondo me delicati sia per noi sia per la cultura europea, che si sa è piena di pregiudizi, di preconcetti e magari delle idee tutto sommato non è molto chiare della volta. Per cui io aspettavo che la relazione, sinceramente, è stata interessante e molto attuale, che suscitasse un dibattito almeno della domanda e della curiosità da parte delle numerosissime donne che almeno erano presenti qui. Invece non c'è stato. Per cui adesso io, insomma, comunque si è parlato, insomma, di discriminazione, cioè il termine discriminazione nei confronti, o cioè se c'è stata una discriminazione nei confronti della donna nel mondo musulmano, io mi sembra, cioè, della volta magari si è parlato di discriminazione, pensiamo che la discriminazione solo nella cultura islamica, invece guardando un po' la cultura del mondo vecchio e nuovo, la discriminazione c'è stata in tutte le culture, e compreso il mondo musulmano nei confronti delle donne, se c'è stata o c'è, esiste. Io, per me, poi esiste in tutte le culture, anche adesso. E quindi, in questo caso, si può parlare che la discriminazione, quindi, non è causata dall'Islam o dalla religione islamica nei confronti delle donne, un elemento tutto sommato universale che accomuna tutte più o meno le culture, o quasi tutte. In effetti sono stati poi, come risposta a queste situazioni, diciamo, di inferiorità del sesso femminile, sono stati i processi di emancipazione. I processi di emancipazione sono stati tutte le società europee, islamiche, cristiane o meno. E poi l'Islam non è stato mai un ostacolo anche cioè, per la donna di usufruire delle frutti dei processi di modernità. Un esempio emblematico è la conquista del diritto al voto in Turchia, che le donne turche musulmane l'hanno conquistata nel 1924, invece le donne italiane, europee, cattoliche l'hanno conquistata nel 1948. Quindi sono 24 anni di differenza, sono le generazioni. Cioè, questo secondo me è un esempio che può confutare, o potrebbe confutare, certi pregiudizi che parlano che l'Islam è un ostacolo a certi a certe conquiste, insomma, moderne. E una prova anche sulla discriminazione che esiste in tutta la società, e ancora qui in Italia, poi adesso porto degli esempi, anche nel Trentino ci sono esempi, no? Evidentissimi, che le donne tutto sommato ancora non è come gli uomini, come qualcuno spera. Ad esempio, nella zona di Trieste c'è una spiaggia ancora divisa, separata, femminile e maschile. Questa è Trieste. E se qualcuno all'estate si informa, va a quella spiaggia lì. Quindi, non solo. Qui a Trento abbiamo la comunità, magnifica comunità di Fiemme, no? Dove questa comunità di Fiemme, in pratica, le donne non hanno il diritto al voto e non possono essere neanche candidate. Val di Fiemme, questo. Nel Principato del Liechtenstein, qui al centro dell'Europa, le donne non hanno assolutamente il diritto al voto, solo gli uomini. In alcuna parte delle Svizzere, ancora in certi cantoni, le donne non hanno il diritto al voto, ma non solo. Quando la donna si sposa, il suo reddito diventa automaticamente una proprietà dell'uomo, il capofamiglia. Dunque, e poi abbiamo adesso l'esempio su le non, cioè l'Islam non rappresenta un ostacolo nei confronti delle cosiddette emancipazioni, poi anche del chiarire che cosa è questa emancipazione. Benazir Bhutto, che è adesso il primo ministro in Pakistan, abbiamo visto i giornali, la prima donna che governa un paese musulmano. Io volevo vedere quante donne occidentali hanno governato un paese occidentale. E Thatcher, la Gesù Guardia di Thatcher, insomma, l'unica donna. Non penso che è un esempio bellissimo della donna europea. Sì, sì, ma non sono simboli da imitare comunque per la donna, spero almeno. E qui arriviamo al discorso, la professoressa Sarnelli ha parlato che una delle società più aperte è la società libanese e la società siriana o magari egiziana, grazie all'insegnamento delle suore. No? E vabbè, qua sempre torniamo. Cioè, emancipazione diventa la libertà quando le donne dell'altro mondo, musulmano o no, no? Ci somigliano, altrimenti se non ci somigliano vuol dire non sono libere. Se le abbiamo educate noi, no? Sono libere, altrimenti non lo sono. Questo mi sembra un po', a parte anche da vedere adesso magari qua non ci sono delle sorelle qui, io non vorrei scandalizzare, non polemizzare con nessuno, ma non mi sembra che almeno la vita che fanno le suore o come un indice almeno coincidente o coincide con il concetto di libertà laica o europea laicista, non mi sembra che è un modello molto incoraggiato della cultura, cioè vuole dire tutto sommato, almeno per me, no? Guardando la cultura europea, il modello di vita delle sole che fanno non è un indice almeno libertario, no? Poi, e quindi c'è il discorso questo, che cosa deve, per diventare la donna musulmana si danno delle proposte, delle volte e delle ricette, no? Come dovrebbero fare per diventare libera? Le scuole, no? Il lavoro, così. Io secondo me, tutto sommato, è vero che un certo livello culturale è fondamentale per affrontare certe problematiche poi della vita quotidiana o oltre, ma allo stesso momento le scuole come impostate, il modello di lavoro come imposto, semplicemente è quello di produrre mandopera che lavora, cioè la donna diventa insieme all'uomo, no, al servizio di cosiddetta il capitale, no? E questo è stato un esempio importantissimo, è la Svezia ha libertà sessuale, fare bambini, lo Stato non vi preoccupate per il mantenimento, lo Stato sarà garante di questa cosa qua, ma semplicemente, no, una libertà in funzione, no, di andare in fabbrica o di andare fuori a lavorare in servizio di, no, della produttività. Cioè, quindi io non sto dicendo qua non si deve andare a lavorare o non si deve andare a studiare, assolutamente, però anche da vedere qual è la cultura e qual è l'educazione, perché mi sembra che ormai i movimenti critici nei confronti di un tipo di insegnamento, di un tipo di cultura di lavoro come esiste nell'Occidente, è anche in discussione, in dibattito, no? Per cui noi, cioè, come società musulmana dovremmo almeno imparare dalle esperienze, no, o dei guasti, degli errori che ha prodotto, insomma, le conseguenze che ha prodotto il sistema di lavoro, di produttività, di produzione nell'Occidente, no, per evitare questi gravi problemi. Comunque, e qui io adesso finisco sinceramente queste mie osservazioni, però rimane il fatto che dobbiamo, cioè, chiarirci, insomma, magari in altra sede, il discorso, il concetto di discriminazione, cosa vuol dire di libertà, se c'è una discriminazione veramente si può insomma darla di contorni ben precisi dal punto di vista teorico, anche la libertà, se c'è un solo modello unico da seguire e che devono seguire tutte le altre popolazioni e le altre culture. Grazie. Grazie.